24, i gialli della storia. Pronto, avvocato? L'avvocato Giorgio Ambrosoli, di 45 anni. Io non volevo salvare, ma da questo momento non lo salvo più. È stato ucciso questa notte a Milano. Perché lei è degno solo di morire ammazzato come un cornuto. Giorgio Ambrosoli, liquidatore dal 74 della banca privata italiana, che faceva capo al finanziere Michele Sindona. Certo, era una persona che in termini romanesti io direi se l'andava cercando. La sera dell'11 luglio del 79 a Milano, un sicario venuto da New York uccide Giorgio Ambrosoli, liquidatore della banca privata italiana di Michele Sindona. Oggi a Mix 24 raccontiamo il giallo della sua storia, una storia che si intreccia con la grande finanza, la politica, la mafia e soprattutto con la parabola di Michele Sindona, il finanziere siciliano che dal nulla ha costruito un'immensa fortuna e poi fallisce improvvisamente nel 1980. Sindona viene condannato a 25 anni di prigione negli Stati Uniti e lì lo abbiamo intervistato. Lei nega i suoi rapporti con la mafia. Non può negare però di aver avuto rapporti con Gambino e con il suo clan, come ha anche confermato suo genero Giansandro Magnoni. Io ho avuto rapporti con Gambino e i miei rapporti con Gambino, e non con la mafia, sono stati dichiarati da me, non trovati da nessuno. Io conoscevo il padre di Gian Gambino perché andavo al Caffè Italia, dove vanno tutti gli italiani che vivono in quella zona, a prendere il caffè, e veniva a Caggia Gambino. E quindi lei come... un giorno che doveva vendere la sua automobile, che era Cadillac, che io l'ho comprata. Ma lei allora come definirebbe i suoi rapporti con la mafia italoamericana? Io non ho rapporti con la mafia italoamericana. Nel 74 Sindona è al culmine della carriera. Controlla 146 società in 11 paesi del mondo. Ma la svolta è avvenuta prima, nel 69, quando in un incontro notturno incontra in segreto Papa Paolo VI, che lo incarica di vendere il patrimonio immobiliare del Vaticano. Ma lei non si è mai sentito investito del ruolo di banchiere del Vaticano? No, questa cosa significa il ruolo banchiere del Vaticano? Io ho fatto degli affari col Vaticano, credo di aver aiutato il Vaticano in un momento difficile, forse di avergli aiutato una bancarotta, quando ho rilevato tre società, mi hanno consegnato bilanci falsi, gliel'ho detto, mi hanno detto che Dio mi avrebbe compensato, e loro mi avrebbero aiutato, cosa che non si sono guardati evidentemente bene dal fare, questa è un'importanza. E i suoi campi di competenza si allargano, tanto che in una conversazione con Andreotti lancia un allarme sulla crisi finanziaria in arrivo. Perché dette un allarme su quelli che erano i pericoli di un sistema finanziario internazionale che nell'immediato forse pochi compresero, che però poi si è visto quanto fosse tempestivo. Di lì a poco, nel 73, lo shock petrolifero gli darà ragione, ma intanto nel 72 Sindona ha comperato il 25% della Franklin National Bank per 40 milioni di dollari. È una quota che gli garantisce il controllo della 20ª banca degli Stati Uniti, oltre alla banca privata di Milano. Eppure nel 73 le banche di Sindona registrano una crisi di liquidità. Nel frattempo il finanziere siciliano compie spericolate operazioni speculative nell'area dei cambi. Scommette tutto sulla tenuta del dollaro, che invece precipita. Per difendersi da un crack finanziario ormai imminente, cerca nuovi appoggi politici e nuovi amici e si iscrive alla P2 di Licio Gelli. Gelli mi disse: noi siamo completamente a tua disposizione e ti consideriamo un fratello. Quando mi inviò la tessera, tra l'altro non firmata da lui, ecco perché poi mi hanno detto loggia segreta, la mia era firmata dal maestro generale, gli disse: vi ringrazio, ma io non partecipo perché la mia ideologia non consente di partecipare a nessuna società. Nel settembre del 74 la banca privata italiana dichiara la bancarotta. Il 3 ottobre è la volta della Franklin National Bank. È il più grande crack finanziario nella storia degli Stati Uniti fino ad allora. Ma cosa c'è dietro a una caduta così rovinosa? Per rispondere a questa domanda bisogna seguire l'indagine di Giorgio Ambrosoli. Ambrosoli è stato nominato dalla Banca d'Italia commissario liquidatore. È un incarico di prestigio ma anche molto delicato e complicato, come spiega Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio. Quella mattina c'è la coda dei risparmiatori che sperano di poter recuperare all'ultimo quello che avevano depositato su quelle banche, che non sanno che in realtà quelle banche sono già chiuse, non se l'aspettano, e c'è la polizia per contenerli. Michele Sindona nel frattempo ha già lasciato l'Italia alla volta degli Stati Uniti. Pochi giorni dopo, il 4 ottobre, il giudice istruttore emette un mandato di cattura nei suoi confronti. Il finanziere allora a questo punto diventa un latitante a tutti gli effetti e nel frattempo, mentre la magistratura indaga sull'aspetto penale della bancarotta Ambrosoli, inizia il suo lavoro. Sentiamolo in questa intervista. Sindona indubbiamente è stato l'uomo che, proprietario della banca e animatore della banca, l'ha portata nel giro di pochi anni a diventare una delle più grandi banche private italiane. Si è visto che questa grossa dimensione che aveva ottenuto la banca privata finanziaria, la Banca Unione, nascondevano in effetti operazioni tali per cui si era consumato il patrimonio e si è arrivati a un deficit di 150 miliardi. Michele Sindona intanto è ormai latitante a New York e dagli Stati Uniti cerca di ostacolare Ambrosoli in ogni modo. E Sindona può anche contare su amicizie molto molto influenti, come spiega Massimo Teodori, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona. I rapporti tra Andreotti, che diventa presidente del Consiglio nel 1976, e Sindona, latitante criminale, furono continuativi e strettissimi. Sindona sostanzialmente diceva a tutti questi personaggi, e in primo luogo al presidente del Consiglio, che all'epoca era Andreotti: bene, noi siamo stati amici, siamo stati partner negli anni felici, cioè fino al 1974. Adesso voi dovete fare in modo che quella amicizia di cui abbiamo goduto venga esercitato in questo momento, facendo cadere le imputazioni che ci sono nei miei confronti. Questo è il quadro reale, cioè un grande ricatto fatto da Sindona ai suoi amici. E Sindona scrive una lettera ad Andreotti spiegando quelle che sono le sue richieste. Rivolgendosi appunto ad Andreotti, presidente del Consiglio, gli diceva: contrastare l'estradizione voluta dai giudici sulla base di un giudizio di preconcetto e preordinata colpevolezza, esercitare una pressione sull'apparato giudiziario e amministrativo, sistemare gli affari bancari della banca privata italiana, chiudere la pagina di grave ingiustizia apertasi con la liquidazione coatta, sì da dare tranquillità agli azionisti del Banco di Roma, eccetera. Questa lettera ha il tono di una persona che dice al Presidente del Consiglio quello che deve fare. Io ho cercato di vedere con obiettività la situazione. Non sono mai stato un sindoniano, ma non ho mai nemmeno creduto che lui fosse il diavolo in persona. Ma Ambrosoli è un uomo fermo e incorruttibile, allora bisogna neutralizzarlo. Il lavoro di Ambrosoli intanto è a un punto decisivo. Il commissario liquidatore infatti ha scoperto che Sindona ha creato un complicato sistema di scatole cinesi. Con i soldi dei clienti della sua banca, Sindona ha acquistato e finanziato società in tutto il mondo. Per recuperare quei soldi, allora, e pagare i debiti, Ambrosoli deve mettersi sulle tracce delle società di Sindona. La fortuna però lo assiste. Ambrosoli individua una società che ha sede nel Liechtenstein, la Fasco. Ascoltiamo Vittorio Coda e Pino Gusmaroli, collaboratori di Ambrosoli, il figlio Umberto. Gran parte di quello che va sotto il nome di Gruppo Sindona faceva capo alla Fasco. Quindi il fatto di arrivare a controllare la Fasco era importantissimo per poter poi dopo procedere a fare chiarezza e procedere poi nell'attività anche di realizzo. È arrivato un fax dove dicevo che veniva a scadere il consiglio di amministrazione della Fasco. Quel fax papà lo legge non come un avvertimento qualsiasi, guardate che c'è qua un dossier titolo intestato a voi, ma come l'opportunità per entrare attraverso quel dossier titoli subito nella Fasco. scalzare i vertici di comando della FASCO, sostituirvisi e dall'interno di questa realtà acquisire tutte quelle informazioni che appunto con le rogatorie e con i vincoli del segreto bancario era impossibile ottenere. Si era creato un pochino di, sai, un po' di euforia, però per poter agire bisognava dimostrare che le azioni di Fasco erano state comprate da Sendona con soldi della banca. E dopo qualche giorno si è riuscito a dimostrarlo. E forse in quel momento Sendona ha capito con chi aveva a che fare, forse in quel momento ha iniziato a preoccuparsi. Intanto a New York il magistrato John Kenney sta indagando sul fallimento della Franklin National Bank di Sendona. Il 18 maggio del 76 Kenney incontra Ambrosoli che gli offre un aiuto decisivo. Ero molto sorpreso, ma anche soddisfatto perché ci stava offrendo i frutti del suo lavoro, che era stato enorme. Per ogni cosa lui aveva dovuto richiedere assistenza all'estero e svolgere interrogatori. Quindi avremmo impiegato mesi, se non addirittura anni, per raccogliere tutte quelle informazioni che invece Ambrosoli ci fornì in poche ore. Fece molte cose e fu di grande aiuto. Era un uomo cortese e instancabile. Ma le due cose più importanti furono la spiegazione delle macchinazioni di Sendona e delle modalità con cui prendeva i depositi bancari e li utilizzava come fondi personali. Dopo il crack della banca privata è lo Stato italiano a farsi carico dei suoi debiti. La mancata riscossione dei crediti ricadrebbe così tutta sulle spalle dei contribuenti. Ma gli obiettivi di Sendona e Ambrosoli sono diversi. Sendona vuole limitare la liquidazione al 63% del debito e soprattutto vuole tornare in possesso della banca. Ambrosoli invece vuole recuperare tutto il possibile, evitando così che il debito ricada sui cittadini italiani. E in questo piano di salvataggio è coinvolta direttamente anche la Democrazia Cristiana, che ha ricevuto ripetutamente fondi dalle società di Sendona. Per quello che io so, il partito non ha mai goduto di grande possibilità finanziarie, quindi non credo che né Sendona né altri avessero largheggiato nel rendere possibile le spese. Ma i soldi che ha dato la Democrazia Cristiana sono provati. Però insomma su questo bisogna guardarlo senza uno spirito emotivo, come tutte le cose insomma si possono anche prendere delle cantonate, ma non è che per questo c'è da scrivere un romanzo. Ma se Sendona gode ancora di appoggi politici, Giorgio Ambrosoli è sempre più solo. A schierarsi apertamente al suo fianco è quasi soltanto la Banca d'Italia. La Banca d'Italia guidata dal governatore Paolo Baffi e dal suo vice Mario Sarcinelli. Negli Stati Uniti, intanto, il processo a Sendona si fa sempre più vicino. E i nemici di Ambrosoli si annidano ovunque, anche tra persone insospettabili. È l'aprile del 78, Giorgio Ambrosoli ha preparato una relazione finale sulla bancarotta di Michele Sendona, che deve consegnare alla Banca d'Italia, un documento ancora segreto che tuttavia gli avvocati difensori di Sendona mostrano di conoscere già, così l'avvocato di Sendona, Rodolfo Guzzi. Questa relazione arrivò a New York, non l'abbiamo ottenuta noi, la ottenne Sendona. E quel momento lì è stato un pochino un momento di panico, perché si è fatto fare, beh, qua c'è una talpa, dove? In ufficio nostro, perché loro agivano conoscendo la situazione, noi non conoscevamo loro, ma conoscevamo la nostra. Insomma, c'è una talpa di cui non si conoscerà mai l'identità, ma che sta mettendo in difficoltà il lavoro di Ambrosoli. Intanto siamo alla fine del 78, Michele Sendona continua a inviare al Presidente del Consiglio i piani di salvataggio e Giulio Andreotti si attiva. Tramite il Ministro dei Lavori Pubblici, Gaetano Stammati, fa pressione sulla Banca d'Italia perché a sua volta prenda in esame i piani di salvataggio di Sendona, ma la Banca d'Italia oppone un netto rifiuto. Ancora Rodolfo Guzzi e Giulio Andreotti. Naturalmente non è che avessi in mano il bastone dorato per poter fare dei miracoli, ma quello che mi pareva giusto fare io l'ho fatto, ma senza crearmi troppi problemi né complessi. Andreotti mi fece sapere che praticamente il progetto non poteva essere preso in considerazione perché era un momento politico non idoneo. E se i suoi interlocutori politici sono deboli, Michele Sendona è in un vicolo cieco, anche perché nella delicatissima partita che Sendona sta giocando per salvare se stesso entrano altri giocatori. Ancora l'avvocato Guzzi. Sendona certamente aveva avuto grosse responsabilità nel fallimento della Franklin, che era la banca americana. Certamente lì aveva fatto perdere i soldi anche a qualcuno che di Cosa Nostra. A quel punto Ambrosoli comincia a ricevere telefonate minatorie. Pronto? Pronto l'avvocato? Sì. Se le può fare piacere, gli volevo dire questo. Io se le sto chiamando da Roma, sì, che sono a Roma, e punterò il dito tutto su di lei. Chi come scusa? Se lei che non vorrebbe collaborare. Lei mi appuntano per che cosa? Me lo spiega? Perché dice che lei non vuole collaborare e aiutare quella persona. Il tentativo evidente è quello di spaventare Ambrosoli e farlo recedere dall'opposizione ai piani di salvataggio previsti da Sendona. E il grande mi ha capito che no? Il grande immagino sia Sendona, no? No, il signor Andreotti. Chi, Andreotti? Sì. Oh. Ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto, ma che la causa è sua. Ma sono io con esatto, Andreotti. Perciò ci dico se sì a guardare che lo vogliono mettere a lei dei guai. Va bene? Mi dispiace che non ho più gettone. La chiamo domani alle 12:30 all'una. Benissimo. Arrivederci a lei nuovo. Le telefonate continuano e a una di queste è alla presenza dell'avvocato Guzzi. Pronto? Pronto, l'avvocato? Sì, buongiorno. Buongiorno, e allora? Allora, l'avvocato Guzzi è qui, ma non mi sa dire cosa dovrei fare io. Come, non ce l'hanno detto? No. Ma è impossibile, per me mi è stato detto che sto qua, di andare a New York entro 3 giorni. Lei deve telefonare a chi sa e farsi dare i documenti. Capisce perché entro 3 giorni lui non ci fanno l'estradizione o no? Gli avvocati a lei non ci hanno detto niente. Di andare a New York? No. Non gliel'hanno detto? No. Sono dei figli di puttana. E io ho l'impressione che devo cominciare di loro. Loro dicono che devo cominciare di lei. Io invece comincio da loro. Questa massa di buffone e cornute. Rodolfo Guzzi telefona a Sendona poco dopo e cerca di fargli capire che la strada delle minacce non porta a niente. Che anzi è una sciocchezza perché le telefonate vengono registrate. Intanto è sotto attacco anche la Banca d'Italia. Il governatore Paolo Baffi, il suo vice Mario Sarcinelli vengono arrestati per delle accuse che si riveleranno successivamente infondate. Ma la debolezza della Banca d'Italia è anche la debolezza di Giorgio Ambrosoli, che si trova sempre più solo. Intanto si avvicina il momento del processo negli Stati Uniti e Giorgio Ambrosoli è il principale teste d'accusa. Ma gli avvocati di Sendona chiedono di poterlo interrogare a Milano prima del processo. A un certo punto Ambrosoli dice: non una lira è uscita dalle tasche di Sendona per comprare la Frank. Sono tutte risorse che sono uscite dalle banche. Quella deposizione risulterà decisiva per l'accusa nel processo americano a Michele Sendona. Ma il commissario liquidatore non vedrà mai l'esito di quel processo. Le sue ore, infatti, sono contate. E la sera di mercoledì 11 luglio del 79, quella sera Ambrosoli ha cenato con degli amici, poi sono saliti tutti a casa a vedere un incontro di box in televisione. Intorno a mezzanotte squilla il telefono, ma non risponde nessuno. Dopo aver accompagnato i suoi amici, l'avvocato sta per tornare a casa quando una voce lo chiama. Il signor Ambrosoli? Lui ha detto sì. E gli ho detto: mi scusi, signor Ambrosoli, e gli ho sparato 4 colpi. Questa è stata la sua confessione. I funerali di Giorgio Ambrosoli si celebrano in una Milano estiva a dir poco distratta, senza la partecipazione delle autorità. Il 18 dicembre dell'80 Michele Sindona viene condannato a 25 anni di carcere per il fallimento della Franklin. Ma in Italia c'è ancora il processo per l'omicidio di Ambrosoli. Ad inchiodare Michele Sindona è la testimonianza di Charles Rosa, il magistrato federale che ha raccolto la confessione di Viglia Maricò, l'uomo che ha sparato a Giorgio Ambrosoli. Una sera, proprio agli inizi di luglio, Venetucci, Arrico e Sindona andarono insieme a un ristorante di Staten Island, a New York, il Concadoro. In macchina, durante il tragitto, Sindona e Venetucci dissero ad Arrico che Sindona voleva che Giorgio Ambrosoli fosse ucciso. Per questo omicidio Sindona gli avrebbe dato $50,000. Ma Sindona smentisce tutto. Secondo lui, dietro tutte le accuse ci sarebbe la mano di Enrico Cuccia, ex presidente di Mediobanca. Ma Cuccia al processo racconta di un incontro in cui Sindona avrebbe minacciato di morte Ambrosoli. Il 18 marzo dell'86 la Corte condanna Sindona all'ergastolo per omicidio aggravato. 4 giorni dopo Michele Sindona muore nel carcere di Voghera. A provocare la sua morte è una dose di cianuro contenuta nel caffè. Per la Procura Generale di Milano si è trattato di suicidio. Ma sulla sua morte restano comunque molti, molti misteri. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi e Antonella Migliaccio. Grazie anche a Alessandro Chiappini, Valerio Rocchetti in regia. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.